come ospite, e poi abbiamo Igor Macchia. Facciamo un applauso. Buonasera a Igor Macchia. Buonasera a tutti. E tutti si chiederanno: ma chi è Igor Macchia? Igor Macchia è il lead singer degli Amarcord. Oh. E poi abbiamo Uliana Zanetti che invece suona il tamburello no scusate, Uliana Zanetti che è la curatrice, è una cura, che è qui invece in veste di curatrice, mentre invece è in veste di curatrice indipendente. Perché esatto. Sai che tu sei la nostra che curatrice, non è una cosa, sei portata come esempio di curatrice dipendente. Infatti, quando spieghiamo cosa sono i curatori indipendenti, questa volta, questa volta così, sei indipendente, sì, anche tu, sì. stai già facendo la... sto già facendo, vabbè, mi è scappato, ti è scappato, mi è scappato, effetti. E stai facendo la co-conduttrice, infatti. È scappato. E poi naturalmente abbiamo Cinzia Corda che invece deve fare la co-conduttrice e farà tutte le domande. E le tocca fare tutte le domande. Tutte le domande. Tutte le domande. E poi abbiamo la Simona Pinelli in veste di manager degli Amarcord. Sì. Abbastanza incredibile questa serata. Io sto con la band, insomma, come la, il libro della groupies Pamela De Barres. Mi sembra giustissimo. E infatti siamo qua per presentare un pezzo nuovo degli Amarcord in super anteprimissima. Giusto? Uno dei due, sì. Uno dei due, cioè uno l'avevamo già presentato quest'estate. Che però mi avevi detto di suonarlo, io l'ho suonato. Sì. E l'altro invece me l'hai mandato adesso, per cui non l'avevo ancora suonato. Come si chiama l'altro? Si chiama... Vai Igor, Igor, raccontaci chi sono gli Amarcord e perché. Perché gli Amarcord sono una band bolognese del 91, quindi siamo vetusti ormai. E questo è il nostro quinto album che esce. E abbiamo fatto uscire prima i due singoli che gli abbiamo mandato, uno è L'uomo alla lavastoviglie e l'altro è Il poeta, perché tutto il disco, l'album parlerà di personaggi. Il disco si intitola Gente in ombra, parla di personaggi che normalmente nella vita quotidiana, anche avendo una loro visibilità, poi vengono dimenticati. Questo più o meno è il senso del disco e di ogni canzone. E quale altro personaggio c'è oltre all'uomo alla lavastoviglie e l'altro che abbiamo appena nominato? Il poeta, poi il casellante. Ah, ok. Il giostraio. Quanti sono i pezzi? 11. 11. Perfetto. Curiosissima. Vediamo. Voglio un'altra cosa raccontata a caso di questo disco. Raccontata a caso? A caso, sì. La prima cosa che una diresti... Una curiosità. Una persona che non dicevo prima che eravamo nati nel 91 e debuttammo al Teatro Comunale di Casalecchio. Okay. In quei giorni, perché era anche un po' uno spettacolo, facevamo le prove in questo teatro e io notai questo personaggio che si aggirava nel teatro, che era poi la signora delle pulizie. Sì. Da lì componemmo un brano che è stato poi fatto nel primo disco, sì, che è quello delle pulizie inteso come personaggio, ma mi rimase sempre la voglia di fare un disco intero di personaggi che tu li noti, come noi notammo, cioè, sì, magari per il testo lo notai io, e poi... Semi-invisibili, l'idea, esatto, è partita da lì. Quindi sì, quanti anni fa? 91, 34 anni fa. E poi ho sempre avuto la voglia di fare un album intero così. E adesso l'abbiamo fatto. Quando c'è quel semino lì che si innesca, poi non ha mai modo di uscire, ad un bonsai, togli il vaso piccolo, lo fai diventare grande, diventa un progetto. Molto bello, molto interessante. Quindi quello delle pulizie, un altro. Voglio sentire tutto. Giostraio? Il pompiere in borghese? Il pompiere in borghese, nel senso, quando non è in divisa, perché quando è in divisa è molto visibile, ha questa aura da eroe, ma ho avuto la possibilità di conoscere pompieri e io sono curioso, chiedo, e quindi... Nella canzone li cito come fossero Spider-Man, che è quell'eroe, certo, triste, solo, e i pompieri quando non sono in servizio sono un po' così. Okay. Perché questa voglia di raccontare? Uno anch'io, effettivamente, è vero. Mi fa piacere. Io ho conosciuto un pompiere, sì, però sì, risponde un po', scusate se mi intrometto, però mi colpisce questa cosa. Un cadimalinconico. Sì. Che cosa accomuna tutti questi personaggi? Stai continuando a fare la tua conduttrice. Vabbè, ma anche un ospite può dire delle cose che lei, vengono in mente. Lei mi ispira un sacco, ma fa parte di non lei. Non lo so, accomunano, nel senso, penso la mia sensibilità. Non che io sia così sensibile, la mia sensibilità, io avevo voglia di parlare di queste persone che non sono persone che non vedi. Sì, ho capito. Le vedi, le noti anche, però poi tendi a dimenticarle. Certo. Se posso aggiungere una cosa io, di Igor, appunto io sto con la band, quindi lui ha un po' questo, anche un altro album che è il secondo, che è Il Viaggiatore degli Astri, che fra l'altro su Spotify si trova, perché volevo hanno la sono quelli che noi chiamiamo concept album, no? Sì, okay, cioè lui in verità gli viene in mente, appunto vede quello delle pulizie, gli viene in mente una storia che è fatta di tutte queste canzoni, okay, di tutti questi brani, che se tu li metti in fila effettivamente ti raccontano una storia. Il Viaggiatore degli Astri, che appunto è il loro secondo album, narra la storia di un personaggio tipo del matto del paese e tutte queste vicende. E quindi tu lo leggi come un libro a capitoli, sì, certo, gli album di Igor. E io sono di parte, ma ti assicuro che come un album è come una storia a capitoli. Narrativo, la storia orizzontale collega tutto e poi verticalmente ogni canzone. Illustra come illustrazione, come libro mi potrebbe venire in mente Hugo Cabret, come è una graphic novel musicata. Okay. Stai già diventando un po' troppo alta, perché possiamo passare il livello della Io farei ascoltare L'Uomo Lavastoviglie. No, ecco, partiamo con quello. Decidete, L'Uomo Lavastoviglie è quello già uscito il 18 luglio. E poi in coda così. Ma dove li ascoltiamo questi nuovi? Su Spotify, su Apple, su Deezer, su tutte le piattaforme. No, per ora sono i due. L'album esce entro il 2025, a sorpresa. Ah, così. Perché ci sarà lo showcase, quindi ancora la data non la diamo. Bene, vabbè, ascoltiamo L'Uomo Lavastoviglie. Anche oggi arrivo presto, anche oggi andrò via tardi, col mio amico, quello del giornale, ogni giorno è sempre tutto uguale. Prendi e togli, metti e togli, un cestello, due cestelli, vaffanculo a tutti quanti, al mio cuoco ai ristoranti, gratta, sgrassa, scrosta e lustra, ce ne fosse mai una giusta, anche l'ultimo arrivato, come può fare il soldato, ma non vedi che faccio per tre, anche per te. Basse, anche oggi metà vanno alle tasse, sacrosanto è un mio dovere, ma non posso dare il mio parere. Taglia e sbuccia, lava, fetta, qui c'è sempre una gran fretta, pentole posate, poi ci sono le insalate, corri e suda con perizia, portami anche l'immondizia, e poi c'è immancabilmente la battutina del cliente, ma non per te. Sono l'uomo, la vostra famiglia, sono l'uomo delle meraviglie, ho una laurea, parlo già tre lingue, sono l'uomo, la vostra famiglia, sono l'uomo delle meraviglie, mi curo con le piante, con le stelle, conosco tutti. Abbiamo al 333-180-94-94 abbiamo un messaggio da Pollicino che dice livello di radio altissimo. Ti ringraziamo Pollicino. Grazie Pollicino. Sappiamo che stai scherzando, ma fingiamo indifferenza. Nel frattempo naturalmente dobbiamo anche, non possiamo non dobbiamo ascoltare. Mantenere alto il livello. Altissimo il livello, così vai, clicca. Ma, come ma è strano. Buongiorno. Che... Non c'è niente che non voglio dirti questa sera. Ma una cosa sicura che sento nel mio cuore, io ti amo tanto. Anch'io. Tu che sei il mio signore, da Marco Roma. Anch'io ti amo. Ma Marco ha cambiato Roma. Un po' le melodie. Ha cambiato un po' le melodie. Marco comunque. Roma nel frattempo. Sì, sì, secondo me c'è stata un'evoluzione interiore, musicale, okay. Quest'estate. Super Marco Roma. Solfeggio. Qualcuno ha qualcosa da dire sull'uomo lavastoviglie? Io veramente, ma non so se posso. Puoi. Non so perché se sono no? autorizzata. Sento gelato arancione. Sono autorizzata. Perché mi ha fatto venire in mente un artista che si chiama Filippo Falaguasta. Giuliana Zanetti, spiega tu perché. No, perché per anni lui ha fatto come lavoro artistico, faceva degli altri lavori. Quindi per esempio il cameriere, adesso non me li ricordo tutti, però cioè la sua proposta espositiva era faccio il cameriere, faccio l'uomo delle pulizie, l'uomo di fatiche e così mi ha ricordato un po' questo. Hai capito. Filippo Salaguardi. Naturalmente ci sta ascoltando. È stata evocativa. Ma forse ci sta ascoltando un suo compagno di merende che è Giancarlo Norese, no? Che è uno. Certo, che salutiamo. Ma aveva detto che voleva anche venire oggi, soltanto che non ci stavamo in effetti. Ma per l'epoca è già un buon segnale. In realtà c'è, perché tu sai che tanto lui non parla, no? No, infatti, sarebbe quindi... dovuto. Facciamo finta che sia lì di dietro con noi. È qua dentro allo specchio. Ma tu invece perché sei qua come ospite? No, allora devi cominciare a chiederlo a Giuliana Zanetti. Giuliana Zanetti, perché sei qua come ospite? Io sono un po' in crisi perché non so dove mettermi, no? Sono un po' di qua di là. Allora, Chiara è qui come ospite perché è la protagonista di una mostra che inaugura venerdì 3 ottobre in Vicolo Facchini 5 in uno spazio meraviglioso che si chiama Serendipo. E in realtà l'artefice di questa mostra non poteva venire, quindi ci sono io. Io sono un effetto collaterale di un incontro che è avvenuto in questo spazio tra Chiara come artista e Tapolico come curatrice e animatrice di questo spazio indipendente. Però magari diciamolo che tu sei la curatrice della mostra, no? Eh sì. Non sei solo qui per togliermi dall'imbarazzo radiofonico, cioè. No, dicevo sono un effetto collaterale perché essendo ammiratrice di entrambe, amica di entrambe, insomma, sono stata travolta in questa... È stata costretta. Bellissima, è stata costretta. Una cosa bellissima e devo dire che sì, in questo caso sono una curatrice indipendente con molta gioia, perché a volte fare le cose per puro piacere, insomma, è più bello che farle per lavoro. E quindi sì, una curatrice amatoriale direi sto giro. Anche abbastanza spesso in realtà. Anche è così, a Marconi. No? Adesso se volete dico il titolo della mostra. Ma sì, voglio sapere. Ma qual è il titolo della mostra, Chiara? Si intitola Lo spettro delle possibilità. Mm-hmm. Lo spettro delle possibilità. Esatto. Ho capito. Ma vogliamo sentire le parole di Etta che ne parla, o vogliamo accettare le menzioni per sentire le parole di Etta che ne parla? Facciamo subito le parole di Etta, così mi tolgo ulteriormente dall'imbarazzo, perché non riesco ad auto-intervistare. Okay. Ciao Prox, e grazie per questa serata che dedichi allo spettro delle possibilità. Ciao Stefano, grazie. Ciao Chiara, ciao Iuliana. Mi dispiace moltissimo non essere lì con voi. Io volevo ringraziare Chiara e Iuliana per aver scelto il 5C. Il 5C è un piccolo grumo di uno spettro di possibilità, e lo spettro delle possibilità è proprio la mostra che Chiara porta nello spazio 5C, che è un laboratorio aperto, è un laboratorio pieno di potenzialità e che accoglie le persone che per me rappresentano quello che l'arte contemporanea vuole dire oggi. E quindi io l'unica cosa che vorrei dirvi è un grazie immenso a Iuliana, un grazie immenso a Chiara e un grazie immenso a Stefano. Vi aspetto tutti a vedere il lavoro e vi aspetto tutti ad usare lo spettro di possibilità che è dentro 5C, il laboratorio che Orlando Martello ha scelto di donare a Serendipo, era il suo laboratorio di falegnameria e che lui ha dedicato all'arte pubblica. Oltre che l'arte pubblica, noi crediamo fondamentalmente nella città pubblica, per cui chiunque abbia la nostra missione venga, e soprattutto il 3 ottobre venga a vedere lo spettro delle possibilità di Chiara Pergola, che sono 20 anni che la corteggio per una mostra, venga a vedere lo spettro delle possibilità, perché l'ho curato Liana Zanetti, che per me è oggi il riferimento teorico più importante nel muovermi nell'arte contemporanea. Grazie infinitamente di tutto e a tutti. Ciao Stefano, io spero di vederti prestissimo e con te poi dobbiamo ancora fare la mostra degli scarti. Dobbiamo ancora fare i conti. Minacciosa è stata. Ne parliamo dopo. No, tutta soave per tutto infatti, il messaggio, poi quando è arrivata a te invece, dobbiamo fare i conti. Esatto. Sono partiti i lacrimoni nel frattempo in studio. Esatto. Ma questo oggetto che hai portato è rilevatore di... Perché siccome temevo che qualcuno mi chiedesse di spiegare, anche se gli ascoltatori ovviamente hai non per vedono, darcelo in faccia, però, se diciamo allora se... Pasquini, lo scopo è quello, perché perfetto, non l'ha già incontrato, siamo tutte d'accordo, sì, e quello ci vuole, anzi d'ora in poi lo so perché ce l'hanno sempre tutti con me, ma non so. Posso? Fatemi una domanda e date una risposta. Come... dentro c'è uno specchio sottile che è uno delle, diciamo, dei due lavori della mostra che dialogano, hai fatto 20 anni per di corteggiamento per due lavori. Vabbè, intanto voglio dire che non sono 20 anni, ma sono solo 15, ecco. Poi si chiede perché c'erano tutti con lui, e poi sono due ambienti, cioè non è proprio due lavori. Ecco. Sono due ambienti, la curatrice qua giustamente. Ma avete già installato, com'è la faccenda? Adesso io stavo spiegando una cosa, comunque abbiamo già iniziato a installare, io ho trasportato tutti questi oggetti, che per chi ci ascolta sono degli specchi molto sottili, che sono una delle due protagonisti di una delle due installazioni che saranno in dialogo al 5C Lab. E specchio molto sottile, il più sottile specchio che è possibile tagliare a mano, che è un po' l'emblema della condizione a cui siamo ridotti nella società individualistica. Quindi così uno si specchia, adesso magari voi provate e poi mi dite perché è impossibile. Che cosa vediamo? Certo. Esatto, che cosa vedete? Questo. Questa è una delle due stanze. L'altra stanza magari la racconto dopo. Mi piaceva vedere. E poi c'è giustamente, se uno la dipende anche, esatto, come lo orienti, perché se lo orienti in orizzontale tutto si risolve molto meglio. Vorrei provare. Ma in verticale ci sono delle difficoltà. Sì. Io non ho capito niente. Ma no, Stefano, è uno specchio molto sottile, prova a vedere se ti trovi qua dentro. No, però ma adesso chiude un occhio, ma non devi chiudere, trova la soluzione. Chiudere un occhio oppure sì, sei costretto imparare a stare nella complessità senza illusioni di totalità. Ah, perché naturalmente partecipate alla giornata del contemporaneo. Partecipiamo, ma l'inaugurazione. Sì, c'è, cioè, perché facciamo questa apertura straordinaria il giorno della la giornata del contemporaneo, che è il 4 ottobre. La mostra sarà visibile anche la mattina dalle 10 alle 14.30 e poi il pomeriggio con l'orario consueto dalle 17 alle 20. Wow. Così ha deciso Etta Polico. Siete mattinieri anche voi? Non lo so. Bisogna aspettare. Invece voi il 4 ottobre cos'è che fate? Posso prima di dire salutare Etta anche da parte mia, che spero che sia lì che ci ascolti. Assolutamente. Anche a me mi legano ricordi bellissimi di Etta, perché io per 8 anni ho gestito il Parco della Montagnola, con lei abbiamo fatto un sacchissimo di progetti, la conoscevo già prima, e così urbi e torbi la ringrazio, perché fu lei l'idea di intitolare a mio papà la tensostruttura prima che fosse adesso mi commuo, prima che fosse abbattuta e diventasse Filla, che lei ha conosciuto bene, quindi la volevo ringraziare moltissimo. E non riesco mai a venire a Serendipo, poeta, perdonami, prima o poi arriverò, e in particolare il 3, il 3. Non possiamo venire perché loro suonano al Pratello, però puoi venire in 4 mattina, sono al May di Faenza. Esatto, no, infatti mi ricordavo che succedeva qualcosa sia il 3 che il 4. E niente, e invece quello che sta per succedere è, è che ci sono le pubblicità delle 7:30, o sbaglio? Vabbè, no? tra un paio di minuti. Ah, ok. Abbiamo scusa, un paio di abbiamo minuti. Abbiamo un paio di minuti. Abbiamo un paio di minuti per, volendo, per volare. Vogliamo aggiungere qualcosa? Potremmo cercare di togliere questo. Io non sono responsabile questa volta, nemmeno sono le mie cuffie, che... ma mi taccio. Secondo me è il cellulare della cosa. È uno dei cellulari. È spento. È spento. Allora non è il cellulare della. No, sono le mie cuffie che fanno. Le tue cuffie fanno contatto. È un leitmotiv della trasmissione. Il cellulare. Il gracchiare di coccio spaziale. È un gracchiare. Posso gracchiare il rumore del vinile, rumori bianchi, no, cioè, o al ventilatore, o sono gli aerei, o sono. Sì, è vero, oggi non abbiamo gli aerei perché fa freddo e dunque abbiamo tenuto tutto chiuso. Ma voi avete caldo, però? No, ma io sto bene. Ok. Siamo tutti benissimo. Do solo dove sono il venerdì. Venerdì 3? No, io sono con lui. Lui è. Io sto con la band. No, è bello, la cosa bella è che siccome Chiara oggi è ospite, non sta facendo il disegno di coccio spaziale, lo sta facendo a Marcord. Sì, ma non hai ancora fatto dire dove sono il 3. Hai ragione, dove siete il 3? Scusate. Il 3 al Circolo della Pace, ore 20:30. In via del Pratello. Chi non conosce. Comunque lo ripeteremo dopo l'angolo della menzione, dopo che avremo sentito le pubblicità delle 7:30. Che non è quello di Bazzano. Naturalmente salutiamo anche Speciale Dolore, che ci ha fatto questo meraviglioso fantastico jingle. Più fai il cantante che si inclina con l'asta e più devo andare di là. È stato un piacere, grazie. Sì, perché lei è proprio incastrata. In effetti sei abbastanza incastrata. Se vuoi ma dovremmo fare un crowdfunding per faccio una foto a Pasquini, perché è interessante la posizione. Dovremmo fare un crowdfunding per avere un po' più di cuffie qua. Ma anche una prolunga, oppure questa, dovremmo magari. Vabbè, io sento già la risposta di Cannella: dovresti avere meno ospiti, così tipo. Comunque, sì, siamo insomma qui con gli Amarcord, con una Amarcord. Con una Amarcord. Sì, componenti? 8. 8, cioè okay. Gli altri 7 sono qua fuori che aspettano. In fila. Per le prossime 4 ore. Ma quello che cantava sei tu. Sì. Ah sì, è bello. Sì, conoscevo un po' la voce. Non abbiamo ancora ascoltato il poeta. Non abbiamo ancora ascoltato il poeta. Primissima volta. Ah, no, giusto. Dobbiamo ascoltare. Diamo i membri delle Marcordi, sono contenti. No, infatti. Dai, magari citiamoli. No, anche appena cazziati, secondo me non si sono neanche collegati. Michael Harding, irlandese, alla batteria. Federico Magazzini al contrabbasso. Alfeo Packer alla fisarmonica, Gianandrea Lanzara alla chitarra, Riccardo Pitao tromba, cornetta, flicorno, Giuseppe Lastella trombone, tuba e flicorno baritono, Filippo Cassani tutti i sax e io al pianoforte e voce. Igor Macchia pianoforte e voce, super. Wow. E dunque, e quindi ascoltiamo in ascoltiamo anteprima mondiale. Esatto. Mondiale, cioè non l'ha mai sentito nessuno, nessuno. Neanche componente della band. E poi uscirà il uscirà il 17 ottobre. Il 17 ottobre sulle piattaforme, sulle principali piattaforme, su tutte le principali piattaforme. Si uscirà solo digitale. Ma Radio Città Fucicola suonata prima. Eccola, eccoci qua. Se parte. Sono quelli che non riescono ad amar, ed è per questo che son bravi a raccontare. Guardami sempre, amor, intensamente. Che hai, fanno una danza, che meraviglia sei. Sono quelli che non riescono ad amar, ed è per questo che son bravi a raccontare. Angelica, sentire la tua voce che si spegne nel sudore. Sono quelli che non riescono ad amare, ed è per questo che son bravi a raccontare. Angelica, Angelica. Sono arrivati degli importunatori che non dovrebbero essere qua. Infatti ti ho visto a un certo punto in un momento Bruno Vespa. Vero. Esatto, non hanno neanche le cuffie, non hanno neanche il microfono, non hanno niente. Non hanno niente. Niente. Potremmo star mentendo. Sono degli ospiti nulla tenenti. Ma qualcuno vuole dire qualcosa su questa canzone fantastica degli Amarcord, i cui sette componenti stanno qua fuori aspettando al freddo. Al freddo. No, bravi, cioè. Siete... È arrivato anche un commento. È arrivato anche un commento. Vero? Ah sì. Come che lo salutiamo che ci sta ascoltando, di Riccardo Pitau, che è il trombettista che è Guasila. Da Guasila, perché ti ha detto alzatemi la tromba. Siccome appunto è la prima volta che viene passata in radio, ha detto vi dico solo che sto ascoltando usando le cuffie senza casse e si sente da Dio pure così. Ah, grazie fantastico. A Riccardo. Wow. Molto bene. L'hanno mixata proprio bene. Chi l'ha mixata? Christian Lisi, che salutiamo. Ex contrabbassista di Amarcord. Ah, l'avete cacciato, però poi gli date da mangiare. Esattamente. Mi sembra giusto. Bravi, no? Devo dire che adesso poi ci vediamo al Pratello venerdì, perché io non vado alla mostra della Chiara Perla. No, diciamo che puoi farla double, perché gli Amarcord sono alle 20:30, prima. Anche perché a noi alle 20 è ora di andare a letto. Il giorno dopo, certo. Quando vi troviamo e dove? L'abbiamo detto prima. Al May, dove? Al May, il May però è in là. Più in là. Dov'è in là? Dov'è il May? Il May è a Faenza. Il Meeting delle etichette indipendenti, che è una cosa importante. La cosa più importante che ci sia oggi al mondo, oltre a Oliana Zanetti, a livello europeo, come curatrice. Sulle etichette indipendenti. Fra l'altro, ringraziamo l'etichetta, insomma, salutiamo l'etichetta che è Egea Records. Certo. Cioè, Egea Records è l'editore, l'etichetta Le Vele. Che ci hanno portato Claudio Carboni, che ci hanno portato loro. Hanno loro, mi sento molto. Io sto con la band, certo. Al May. Ma ogni tanto qualche suoneranno. Coro non lo fai tu? Sono nessun coro. Nessun coro, no. Cioè, te l'hanno proibito. Io sto con la band, okay. No, ma lui, a parte che non ha raramente voci femminili, e poi i cori che vedete se li fa tutti lui. Ah, wow. No. Cioè, se la canta e se la suona, insomma. E sono in showcase, per cui saranno in Piazza della Libertà. Loro sono intorno alle 19 e poco dopo le 19, però per tutto il pomeriggio ci sono le presentazioni dei singoli e degli album. Si chiamano proprio showcase, cioè quelli che sono usciti in uscita o usciti nell'ultimissimo periodo, quindi è una proprio, il May è divertente in sé. Ah, certo. E in più ci sono anche loro, quindi chiaro. È divertentissimo. Super. Beh, cosa dici? Direi che menzioniamo l'angolo della menzione. Chi parte oggi? Sicuramente non Chiara, perché lei è ospite. Ah, ma io mi levo, io non ho gli occhiali. Ah, tu non hai gli occhiali. Comincia te, siamo io. Dopo ne faccio leggere uno a lei. Mercoledì 1 ottobre alle 17. Sguardi di donna, attraversamenti degli spazi urbani, lo strumento fotografico. Incontro con Tiziana Villani nell'ambito della mostra Ritratto di donna, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili al Museo Civico Archeologico, in via dell'Archiginnasio 2 a Bologna. Invece, giovedì 2 ottobre alle 18, Astuni Public Studio presenta il catalogo di Nulla Due Volte, il catalogo accompagna la mostra collettiva curata da Annalisa Biggi e Isabella Falbo e contiene un testo introduttivo delle curatrici, interviste agli artisti Thomas Berra, Martina Biolo, Daniele Di Girolamo, Adele Di Pasquale, Antonio Fiorentino e Martin Romero. Tutto questo alla Galleria Enrico Astuni in via Barozzi 3 a Bologna. Giovedì 2 alle ore 20, Amara, la seconda lavata di Brillà, lavatoio artistico che è stato ospite di Coxo qualche mese fa, vero, non tanto tempo fa. Un'emozionante festa in famiglia in uno degli spazi che attraversiamo e che ci attraversa quotidianamente, con Falana DJ Set, Kilim, Seldon Pretty e Bertugno, Frida nel Parco della Montagnola in via Arnerio 2 a Bologna. venerdì 3, c'è scritto 3 maggio, fantastico. Venerdì 3 ottobre alle 18.30 appunto inaugura lo Spettro delle Possibilità, mostra personale di Chiara Pergola a cura di Giuliana Vanetti. Due installazioni site specifiche intrecciano visione, spazio e riflessione tra frammenti urbani trasformati in testi poetici e specchi instabili che moltiplicano lo sguardo. Tutto questo al 5C Lab in vicolo del Facchini 5C a Bologna. Ho sbagliato. No, venerdì. Non ho gli occhiali, non vedo cosa sto cliccando in realtà. Meno male che abbiamo azzeccato tutto finora, quindi. Infatti, venerdì 3, dalle 19 alle 23, a Gelateria Sogni di Ghiaccio torna Family Matters, un format espositivo che raccoglie il lavoro di artiste di diverse generazioni attive nell'area di Bologna. 8 mostre personali si susseguono nello stesso spazio, configurandosi come momenti di un'unica mostra collettiva dilatata nel tempo ma non nello spazio. Apre questo secondo capitolo autunnale Marcello Spada con Ganesha Operations, mostra che intreccia mito, logistica e immaginario urbano. Visioni quotidiane si solidificano in forme eccentriche, fontane di sugo e sacchi decorati con gibbets, evocando i fiumi sotterranei di Bologna tra abbondanze di pomodoro e infrastrutture. Alla gelateria Sogni di Ghiaccio in via Tavari Vecchia 5A a Bologna. Tocca a te. Devi leggere questo. Ma va là. Venerdì 3 ottobre alle 20. Li hai. Vai. Venerdì 3 ottobre ore 20. Tornano gli Amarcord in concerto presso il mitico Centro Sociale della Pace, dove la band, tra gli altri brani, presenterà in anteprima il nuovo singolo Il Poeta in uscita il 17 ottobre su tutte le piattaforme. Ingresso offerta libera. Sabato 4 invece la band sarà al May di Faenza, dove suonerà entrambi i singoli L'Uomo Stava la Vastoviglie e Il Poeta. Tutto questo al Centro Sociale della Pace in via del Partello 53 a Bologna. Sabato 4 è la giornata del contemporaneo. I 26 musei a Amaci e circa 1000 realtà in tutta Italia apriranno per il 21esimo anno gratuitamente le loro porte con mostre, eventi, laboratori in presenza e online, per accogliere e coinvolgere il grande pubblico. Se siete uno spazio espositivo o uno studio d'artista, avete tempo fino al 3 ottobre alle ore 15 per iscrivervi. La mappa completa di tutti i luoghi del contemporaneo è su www.amaci.org. Cos'è successo? Era partito un pezzo degli Amarcord da Il Viaggiatore degli Astri. Ma dai, l'hai riconosciuto dalla prima nota? Wow. È tutto giù. No, l'ho riconosciuto perché c'erano i grilli. Da solo. Sabato 4 ottobre 2025 alle 11 la Fondazione Sabe per l'Arte presenta la mostra Tessere, che pone in dialogo il lavoro di Alice Padovani e Laura Renna, artiste entrambe attive a Modena, che in modi differenti reinventano la tecnica del mosaico, per cui è tessere, non è tessere, a cura di Pasquale Fameli. Questo veramente affonda. Penso che sia tessere. È il contrario. Vabbè, quello che volete. Scrivetecelo. Non è un'opinione, bisogna chiedere a qualcuno di mandateci infatti un audio. Comunque, tutto questo è Fondazione Sabe per l'Arte in via Giovanni Pascoli 31 a Ravenna. Va bene? Ravenna. Lo direi io, Ravenna. Sabato 4 ottobre dalle ore 15 alle 18 il Museo Morandi conferma la propria adesione alla giornata del contemporaneo, organizzando in sala conferenze Mambo la quinta edizione della giornata di studi sulla critica d'arte in ricordo di Giovanni Maria Accane, 1941-2011, storico, critico d'arte e docente presso l'Accademia di Belle Arti di Brera di Milano. Ma cosa sta succedendo? In tale atto sempre gli Amarcord. Ma questa è pubblicità occulta. Così a caso. In tale ambito sarà presentata la nuova edizione del catalogo generale del Museo Morandi, pubblicata da Silvana Editoriale, aggiornata e rinnovata nei contenuti e nell'impostazione grafica, facendo seguito alle precedenti versioni del 93, 98 e 2004. Tutto ciò alla sala conferenze Mambo, Museo Morandi, Bologna, via Dominzoni 14. Sabato 4 ottobre dalle 16 alle 21 inaugura Barter, un evento in cui potrai scambiare le tue creazioni, incontrare altre persone creative e creare nuove connessioni andando oltre il valore economico dell'arte. Un baratto d'arte in cui potrai scambiare la tua arte, che diventa un gesto per condividere idee, energie, valori e costruire relazioni autentiche. Durante la giornata chi partecipa potrà portare le proprie opere attraverso un token simbolico, scambiarle liberamente con le creazioni degli altri artisti guest presenti e delle altre persone che parteciperanno all'evento, un'occasione per incontrarsi, conoscere e dar vita a nuove connessioni creative. Barter comprende anche una mostra con i lavori delle artiste, degli artisti Andrea Piccioli, Alessio Bonini, Arneux, Camilla Curioni, Danila Del Monte, Elisa Fontana, Emma Graffiani, Martina Coccinelli e Nicoletta De Santoli. Tutto questo da Barter in via Galliera 8 a Bologna. Sempre sabato 4, ma dalle 18 alle 23, l'inaugurazione della mostra La gioia di ieri di Andrea Salvino. Dopo tanti anni trascorsi a Berlino, Andrea Salvino, da poco rientrato a Roma, dedica agli spazi del Capanaun una mostra personale speciale, realizzata in collaborazione con AF Gallery. La mostra presenta una serie di lavori praticamente inediti realizzati in Germania. La ricerca artistica di Salvino è strettamente connessa alla storia e trae ispirazione dall'iconografia politica, sociale e cinematografica, fondamentalmente del Novecento italiano ed europeo, fino ai giorni nostri. Nell'occasione verrà presentato anche un libro d'artista. Capanaum, via Imelde Lambertini 5, San Lazzaro di Salvo. Poi, per insomma, se non sapete che cazzo fare il 4 ottobre, avete tutta la giornata piena, perché esatto. E comunque non li avete neanche letti tutti, perché infatti io adesso non so se devo dillo, dai, su, andiamo a Roma, andiamo a Roma il 4 ottobre. Cioè, ho capito, dai, che intanto nessuno si attenta a chiedermi niente, perché di solito le faccio io le domande, quindi appunto hanno paura di sbagliare, esatto, a intervistarmi, non mi stanno chiedendo niente, e poi si dimenticano anche degli eventi. Che ad Alchemilla il 4 ottobre c'è la presentazione del libro di Antonella Huber, che secondo me ha un titolo molto interessante, perché si chiama Io mostro. Uliana, lo conosci questo libro? No. Aspetta, no, che ti metto. Sai anche a che ora è? Allora, alle 18 la presentazione, precede una video proiezione, Forme dell'intenzione, creata da Alessandro Gori, dove ci saranno in dialogo con delle immagini del libro anche i lavori di alcuni artisti. Lo cito per caso perché tra questi c'è anche ci sono anch'io. Anche io. Ecco perché. Vabbè, ma sei una etrina, dunque. Quindi sempre il 4 ottobre, da che ora? Allora, dalle 16 la videoproiezione che è creata da Alessandro Gori con i lavori di, adesso non lo trovo più, ad Alchemilla, di una manciata di artisti che hanno lavorato sul concetto di display ad Alchemilla, e alle 18 la presentazione del libro invece con Antonella Huber, che sarà in dialogo con Cecilia Canziani. La Cecilia Canziani è stata la mia professoressa. Domenica 5 ottobre, per quelli che amano alzarsi presto, alle 10:30 del mattino, e Radio Città Fujiko presentano il nuovo fumetto Come la Radio, una graphic novel che racconta i 50 anni di Radio Città Fujiko. Sarà presente il presidente della radio, Alfredo Pasquali, ma anche una delle disegnatrici, ovvero Cinzia Corda. Cinzia Corda, raccontaci di questo. Aspetta, finisci di fare la menzione, poi facciamo. Allora, anche tu sei scissa stasera. Sei scissa 1-3. No, tutto questo a Betty B Festival in piazza Garibaldi a Bazzano, in provincia di Bologna. Com'è andato il fumetto, Cinzia? Ah, benissimo. Com'è stata questa esperienza? È stata bellissima. Abbiamo, tra l'altro, è la responsabile della mia presenza qua. Ah, vedi? Perché è vero. In una sera di gennaio di quest'anno, fredda sera di gennaio, presentammo il progetto qui insieme ad altri due colleghi di disegno, e così ero stata ospite per raccontare questo disegnare i 50 anni della radio, divisi, spartiti in modo molto come dire, molto amichevole tra tutto il gruppo di persone che si erano fatte coinvolgere da questo progetto qua. È venuto fuori il fumetto, che sarà presentato appunto domenica, ma non sarà l'unica occasione. Le successive le menzioneremo nelle prossime settimane, vero? Certo. Perché in questo momento. Anche perché l'ha già detto Cannella nella pubblicità di prima, comunque. Perfetto, ottimo. E tra l'altro c'è un altro progetto dello stesso gruppo. Mm-hmm. Io ho gentilmente. Ma ne parliamo poi con calma. Esatto, ho gentilmente tolto la mia presenza. La trasmissione sta per finire e i nostri ospiti si stanno annoiando. Esatto. Anche perché nessuno ha chiesto niente a Chiara Pergola, date una risposta su questa fantomatica mostra. Ecco, io mi devo fare una domanda. Eh sì, perché non abbiamo capito, cioè, abbiamo, no, a parte vabbè, lo specchio una domanda, io posso fare domande solo a Giuliana Zanetti, a me chiederei, esatto, chiedi a Giuliana perché ha curato questa nota. Sì, ma lei l'ha curata perché è entrata un giorno che stavamo allestendo io e Tapolico e è venuta questa idea. Io poi mi stavo sbilanciando in affermazioni che poi si ritrovano nel testo di Giuliana, perché stavo dicendo ma io non sono un artista, ed è una cosa che penso, credo, pensano tutti più o meno, no? Che tu non sia un artista, certo. No, io mi sono sempre sbagliato, ho sempre pensato che tu lo fossi. Mi dispiace per te, invece con questa mostra potrai apprendere che non è del tutto così. No, posso chiedere a Giuliana che cosa c'è nella prima sala? Perché nella seconda sala l'ascoltatore attento avrà capito che ci sono degli specchi sottili. Devo spoilerare così? No, nella prima sala mi sono astenuta da dire, ma per timore. Quando vedo multimediale. Lo puoi dire che non lo sai, tranquillo. No, lo sa benissimo che cosa certo c'è. Che lo so. C'è un'affermazione scomoda, diciamo così. Sì, è tutto fondato su una frase che naturalmente Chiara ha ricostruito con un metodo abbastanza complesso, insomma. Vabbè, io giravo per la città e fotografando dei pezzi di script ricompongo dei testi poetici a proposito di poeta, no? Ah, sì, esatto, dei testi poetici che vengono dal Tao Te Ching, che è un libro cinese scritto da Lao Tzu tanti secoli fa. E possono essere anche tradotti in modo abbastanza personale. Io ho tradotto in modo un po' così, un po' tranchant, una frase che è mi sembra che sia del secondo aforisma del Tao, però non la possiamo spoilerare. Ecco, no, appunto. Però è presentata in diverse versioni, insomma, questa cosa. Quindi, venite alla mostra. Però leggere questa. Insomma, anche perché se non altro per leggere questa frase. Scopo. Anche perché la trasmissione è finita, per cui non potete aggiungere altro. No, cioè, c'è qualcosa che volete. 5 minuti, però vogliamo il dibattito dopo sulla frase. Esatto. Cioè, ci devi invitare poi, perché secondo me vale la pena veramente fare commentare. Sì, ci vediamo lunedì di nuovo, gli stessi ospiti che raccontano com'è andata la Chiara e Giuliana, la loro parte. Però oltre a Igor Macchia vorrei anche tutti gli altri 7 componenti di Amarcord. Gli Amarcord sono difficili perché uno arriva da Cagliari, quindi viene evocato nel momento giusto, quindi mi arriva e mi riparte. Uno arriva da Teste di Grigno, che è in Valsugana. Perfetto. Un altro arriva da Milano e normalmente riesce a rimanere il tempo di un amen perché è una bambina di 10 mesi. E quindi se vuoi te li raduno. Ok, va bene. Li faccio cadere dall'aereo qua sopra, sai, decolle a terra. Tanto qui. Passano da qui. Va bene, facciamo così allora. Ci vediamo lunedì prossimo con tutti con tutti gli Amarcord. No, naturalmente scherzo. Questo era Coxo Spaziale. Io ringrazio tutti i nostri ospiti che erano Igor Macchia, grazie per averci ospitati. Grazie. Simona Pinelli. Sto con la band. Giuliana Zanetti, la più grande curatrice del mondo. Chiara Pergola, la più grande non artista. Ma co-conduttrice di Coxo Spaziale, che oggi faceva Chiara chiaramente qualcos'altro. Cinzia Corda, che è la più grande fumettista del mondo, dopo Antonella Selva, naturalmente. Antonella, ringraziamo superlativamente Lisa Mignemi, che è stata alla regia e mi ha sopportato anche questo gran bel lavoro. E Stefano W. Pasquini. Senza nessun grande, perché un gran rompicoglioni. Pier Francesco e Letizia che sono nascosti dietro e come al solito. Però forse non abbiamo messo le parole del nostro. Ma sai che non hai il microfono? Non ho il microfono, ma so anche che mi sentite lo stesso perché sto urlando. Comunque, sigla finale: Coxo Spaziale con vomito, speciale dolore. Che bella. Eccoci qua.